Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. Un falò, una spiaggia o una radura in campagna, naturalmente una chitarra. E le parole di una canzone, questa, la stessa che sentite in sottofondo. Non possiamo saperlo con certezza, ma possiamo azzardare con buona approssimazione. In una simile atmosfera sono nati amori, altri sono scoppiati, si sono strette o rinsaldate amicizie, sono stati persino concepiti dei bambini. Il mare nero del ritornello è stato intonato ed evocato da decine, centinaia, migliaia di ragazzi in tutta Italia nel corso degli ultimi 40 anni. Tutti i giovani, ma anche meno giovani, che sull'onda di una melodia semplice e accattivante hanno condiviso i turbamenti dell'autore di queste liriche tanto immediate eppure profonde, tese a esplorare i ricordi d'infanzia e le bionde trecce capaci di evocarli con tanta nitidezza. Il poeta che ha scritto queste bellissime parole, rigorosamente autobiografiche, risponde al nome di Giulio Rapetti, in arte Mogol. Un nome fittizio, quello del paroliere milanese, associabile a molti altri nomi della canzone italiana dell'ultimo mezzo secolo, da Adriano Celentano alla PFM, da Mina a Gianni Morandi, passando per Luigi Tenco e Domenico Modugno. Una lista di personalità a dir poco di spicco nel panorama nostrano della musica. Eppure il nome di Mogol è pressoché impossibile da evocare in qualsiasi discorso senza tirar dentro anche quell'uomo che insieme a lui, nel giro di un quindicennio, ha cambiato per sempre la storia della canzone d'autore. In questo caso la suspense è superflua, persino ridicola. Lui è l'altro 50% di un duo indissolubile nell'immaginario di chiunque. Lui, naturalmente, è Lucio Battisti. Lucio Battisti. Allora Lucio, vogliamo fare delle domande a Lucio Battisti? Benissimo. Se qualcuno ha il microfono a disposizione può benissimo Lucio, fare delle domande a lui. Senti. Ma io non capisco mai dove arriva la voce. Non ti preoccupare. Ecco, scusa. No, lì. A sinistra. Tutti quanti ti attribuiscono dei valori come di un cantante impegnato, eccetera. A me sembra semplicemente che tu parli dell'amore però con altre parole. Soltanto questo, insomma. Una constatazione. Sì. Questa. Cioè, se tutti ti considerano un cantante impegnato o meno. No, che impegnato. Io sono disimpegnato di tutto. Tranquilla proprio, Battisti ha sempre amato scherzare sul ruolo chiave che le sue canzoni e la sua figura hanno ricoperto per decenni nella coscienza di un paese. Un impatto scaturito da un sodalizio, quello con Mogol, che ha profondamente segnato le carriere e le vite di entrambi, anche dopo l'inevitabile rottura artistica e persino oltre la separazione fisica dovuta alla prematura scomparsa di Lucio. Ed è proprio dalla forse impalpabile ma persistente durata di questo legame che vogliamo far partire il nostro viaggio. È un fatto che se me lo dicesse qualcuno non ci crederei. Mogol è uno scettico per natura, eppure i casi della vita lo hanno costretto a ricredersi. Un paio di settimane dopo la morte di Battisti, avvenuta nel settembre del 1998, la segretaria di Mogol viene contattata da una pittrice residente in Spagna che si diletta per passione nell'attività di medium. Lucio era morto da 8 giorni e mi trovavo una mattina in bagno, mi stavo asciugando i capelli, poi a un certo punto vidi riflesso nello specchio del bagno un arcobaleno bellissimo, preciso, perfetto, cioè veramente come se qualcuno l'avesse disegnato. Dopodiché io avvertii la presenza di Lucio, avvertii la sua voce, che era una voce mentale, cioè io la sentivo dentro di me questa voce, il quale mi parlava di questo arcobaleno insistentemente e mi diceva: guarda questo arcobaleno, questo è il titolo della canzone che io voglio. La voce di Lucio continua a parlare alla medium, snocciolando indicazioni precisissime. Ma che cosa significa, gli chiesi, l'arcobaleno? E lui mi disse: l'arcobaleno, ti spiego e devi spiegare a Mogol, perché questo lo devi trasmettere a Mogol, è il punto di congiunzione tra la terra e il cielo. e vibro dentro ad ogni voce sincera, e con gli uccelli vivo il canto sottile, e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire, ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Il pur scettico Mogol, di fronte alla nitidezza delle dichiarazioni della medium, corredate da una serie di eventi francamente inspiegabili, si ritrova sempre più coinvolto nel mistero, ma ancora non sa cosa fare, non sa se scrivere la canzone che il sedicente spirito di Lucio gli intima di comporre. Ne parla con gli amici Celentano e Gianni Bella. E la cosa incredibile, questa è veramente una cosa che si è aggiunta, è che ha detto se trova una musica giusta può darsi che lo affronti, questo tema. E poi c'era Gianni Bella che aveva portato una cassetta e la musica era la musica dell'arcobaleno. Una semplice progressione quasi incantata di gruppi di due note, proprio come indicato dalla medium. E l'ennesimo tassello di una sequenza di segnali che non può essere ignorata nemmeno dal diffidente più accanito. Mogol scrive le parole suggeritegli da uno spirito evanescente, adattandole alla melodia di Gianni Bella, proprio come un tempo faceva con Battisti. Lucio lo stupiva con le note e lui ci ricamava sopra con l'invenzione verbale. L'arcobaleno, interpretato da un commosso Adriano Celentano, è solo l'ultimo, struggente capitolo di un sodalizio che ha attraversato e segnato gli anni più fulgidi della canzone d'autore italiana, incoronando Battisti come uno tra i suoi più grandi interpreti. Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Poggio Bustone, in provincia di Rieti, è un piccolo comune di 5.000 abitanti adagiato su una collina. È proprio in quel mondo tutto chiuso in una via, e precisamente in via Roma al Civico 40, che nasce Lucio Battisti il 5 marzo del 1943. Un posto in cui è difficile distinguersi dal momento che un quinto degli abitanti di cognome fa proprio Battisti. Gli abitanti di Poggio Bustone sono come una grande famiglia ed è difficile per un bambino di inclinazione introversa ritagliarsi il proprio spazio vitale. Lucio è grassottello, complessato, i coetanei si sprecano in soprannomi, tutto tondo, ciccio bombo, palla di lardo. La musica è un rifugio perfetto, nonostante i timori paterni. Poi, visto che lui insisteva, ho detto a me va bene, allora impara la musica e vai avanti. Io, siccome ero un dipendente pubblico, mi faceva piacere che lui studiasse e prendesse, si parla di 50 anni fa, tutti i genitori avrebbero voluto che i bambini, i figli studiassero per un posto fisso. Ma Lucio, di studiare per il fantomatico posto fisso, non ne vuole proprio sapere. La leggenda narra persino che il padre, disperato, un giorno gli rompa la chitarra sulla testa nel tentativo maldestro e disperato di distoglierlo dal proposito di diventare musicista. Un gesto discutibile, uno sforzo inutile. Lui all'età di 16 anni, quindi 16 anni, aveva mille luci a via nazionale, ci manteneva solo, non aveva chiesto mai i soldi. Alfiero Battisti è contrario, ma Lucio è irremovibile. La musica deve essere il suo futuro, non esistono alternative. Mio padre disse, ragazzo mio, se vuoi andare addio. Lucio fa un patto con il padre, studierà e prenderà l'agognato diploma purché poi possa avere via libera per tentare la fortuna come meglio crede. Il sudato pezzo di carta lo conquista nel 1962. C'è scritto sopra perito elettrotecnico, ma lui non può fare a meno di leggerci musicista. Il giovane Battisti inizia a militare in diverse orchestre e gruppi che si esibiscono in giro per locali, prima a Napoli e poi nella capitale. Uno di questi è il Cabala, un night esclusivo in Via dell'Orso, frequentato da divi del cinema e personalità provenienti da mezzo mondo.

Giulio Rapetti nasce proprio nel capoluogo lombardo il 17 agosto 1936. Si diploma ragioniere, ma vagheggia di seguire le orme altrui. Il padre, Mariano Rapetti, è un pezzo grosso della casa discografica Ricordi, venerato per aver salvato durante la guerra l'archivio delle partiture classiche dai bombardamenti. Tempi difficili, quelli del secondo conflitto mondiale, anni duri anche per una famiglia borghese come quella di Rapetti. Momenti ricchi di immagini che si stagliano vivide nell'immaginazione del piccolo Giulio, che un giorno diventeranno materia da plasmare attraverso le parole. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Salvare l'archivio di spartiti classici dalla devastazione della guerra fu un gesto importante che valse a Mariano Rapetti la promozione. Fu grazie al suo salvataggio che i vertici dell'azienda gli concessero di fondare una sezione dedicata alla musica leggera. Ed è proprio qui che sogna di lavorare il giovane Giulio, nell'ambiente fresco, nuovo, elettrizzante, dove si producono le canzoni. Rapetti Senior, oltretutto, non svolge solo mansioni dirigenziali, ma è impegnato anche sul fronte artistico. È autore di testi con lo pseudonimo di Calibi. Lassù in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più. Nel 1953 Mariano Rapetti scrive il testo di Vecchio Scarpone, poi interpretata da Gino Latilla e dal quintetto vocale di Giorgio Consolini. Con un padre così per Giulio, la strada è spianata e già inevitabilmente segnata. Inizia la sua carriera come ufficio stampa della Ricordi Radio Record, la divisione di musica leggera fondata dal genitore. Nel giro di poco tempo passa all'ufficio promozione. Il suo talento per la comunicazione è strabordante, in pochi sanno usare e dosare le parole come fa lui. Una destrezza verbale fuori dal comune per un giovane che ha appeso alla parete il diploma in ragioneria. I numeri gli interessano assai meno delle lettere e delle parole che con queste si possono comporre. Da qui al mestiere di paroliere il passo è molto breve. Mogol è uscito da prima 30 pseudonimi che mi sono inventato io, ho inviato alla SIAE. Siccome li ha bucciati tutti, allora mi ricordo che ho messo nell'ufficio un foglio e chi entrava gli dicevo: scrivi qualche cosa che ti viene in mente, un nome qualsiasi. Poi mi arrivò una lettera. C'era scritto lo pseudonimo scelto per lei, è Mogol, e io ebbi un brivido, proprio un brivido di terrore, perché dissi un nome cinese e dissi: beh, tanto chi mai verrà a saperlo? Già, chi verrà mai a saperlo? Mogol, paroliere alle prime armi, non pensa certo di avere fortuna sin dalle prime composizioni, ma si sbaglia, e di grosso. Nel 1961, il 25enne Giulio vede una sua canzone vincere il Festival di Sanremo. Si tratta di Al di là, interpretata da Luciano Taioli e Betty Curtis. Una hit planetaria esportata oltre oceano e destinata a vendere oltre 6 milioni di copie. Nel 64 è la volta di Una lacrima sul viso, cantata da Bobby Solo. L'Elvis Presley nostrano resta 10 settimane consecutive ai primi posti delle classifiche. Niente male, come inizio. L'interprete è il fantino, ma l'autore è quello che fa il cavallo. Ed è proprio un giovane autore quello che si affaccia alla porta dell'ufficio di Mogol presso la sede della Radio Record Ricordi in Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore pulsante di Milano. È un giovanotto coi capelli ricci, ha poco più di 20 anni, fa il musicista e si diletta nel comporre canzoni. Quelle che fa sentire a Giulio sono tutt'altro che capolavori, eppure Mogol scorge già l'inconfondibile impronta del talento e con essa il seme della gloria futura. Il sorriso di Lucio, quella sua timidezza simpatica e disarmante, lo conquistano. Iniziano a lavorare insieme, alla cremente, con sempre maggiore frequenza. C'è sempre stato un feeling fra di noi, un feeling proprio che riguardava la passione di lavorare insieme. Insieme a quel ragazzo, Mogol sente di poter sperimentare in pressoché totale libertà. I suoi primi grandi successi li ha ottenuti e ora sente di potersi, di volersi permettere di lavorare sul proprio stile e su quello di Lucio, senza concedere troppo alle logiche discografiche, editoriali e commerciali, a costo di andare contro alle direttive dell'azienda per cui lavora. Alla Ricordi, infatti, non tutti vedono di buon occhio Battisti, ma il fiuto di Mogol non si ferma di fronte alle titubanze altrui. chi è che l'ha chiesta, vediamo se sa qual è la prima canzone che ho composto, perché non è che... Che canzone sarebbe? Ma io credo Bella Linda è una delle prime. No, no, no. Che tu hai composto e cantato. No, mi dispiace. Ah, sì. No, ma è Per una lira. Allora, la prima canzone di Lucio Battisti intitolata Per una lira. Faceva così. Per una lira io vendo tutti i sogni miei. Per una lira ci metto sopra pure lei. È un affare, sai, basta ricordare. Il 45 giri dal titolo Per una lira, che sul lato B ospita anche L'oltraggiosa dolce di giorno, è il primo singolo prodotto dalla sinergia di Mogol e Battisti. Esce il 23 luglio 1966 e non ottiene il successo stellare delle prime canzoni scritte da Giulio ed eseguite da altri interpreti. A cantare Per una lira stavolta è proprio Lucio in persona, con la sua voce un po' roca, tremolante, inconfondibile. Un marchio di fabbrica che si allontana molto dall'idea di bel canto che ancora vige incontrastata tra i palcoscenici di tutta Italia, stretta tra i fiori sanremesi e le raccomandazioni degli studi Rai. Ed è proprio la Rai a porre il freno alle gloriose aspirazioni di Lucio. La Rai aveva bocciato Battisti come cantante, cioè non avrebbe trasmesso i suoi dischi. A dire il vero, a Lucio non importa nemmeno molto di cantarle le sue canzoni, a lui interessa scriverle. E Giulio, col quale ormai ha stretto una bella e sincera amicizia, a ricordargli continuamente che quei pezzi eseguiti con la sua voce hanno tutto un altro fascino. Nell'etere risuonano i Dick Dick, l'Equipe 84. Tutti, tranne Lucio, si riempiono la bocca coi successi targati Mogol Battisti. Ci vorranno la pazienza certosina e i consigli di un paroliere per convincere un musicista a trasformarsi in cantante. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Destini incrociati. Destini incrociati ha appena assistito alla nascita del duo Mogol Battisti. Lucio e Giulio sono amici, oltre che inseparabili autori di canzoni. Dei due, il più fragile è Lucio, pieno di velleità e speranze di un fulgido futuro artistico, prontamente compensate da freni, insicurezze e ansie di fallimento. Battisti, a tratti, sembra quasi prigioniero del suo enorme talento, prigioniero del mondo interiore che si agita sotto una testa di folti ricci. Prigioniero del mondo era quella che faceva... Avere nelle scarpe la voglia di andare, avere negli occhi la voglia di guardare. La voglia di guardare, di scoprire, di riversare emozioni in un coacervo di musica e parole, certamente non manca né a Lucio né a Giulio, suo fido compare di creazioni artistiche. Una voglia che, a sentire il parere di Mogol, traspare ancor meglio dalle loro composizioni, se a cantarle è proprio Battisti con la sua voce così peculiare. Ecco, l'acrobazia delle corde vocali, voglio dire, è poco, è veramente poco. Quello che conta è il feeling, la comunicazione di un sentimento credibile. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, il sodalizio dei due si consolida. Insieme macinano canzoni e chilometri sulle ali della fantasia, sulle quattro ruote e perfino sulle quattro zampe. Nell'estate del 1970, Mogol e Battisti organizzano la prima gita ecologista della storia italiana moderna. Milano-Roma a cavallo. Un'esperienza che rafforza ulteriormente l'amicizia e la voglia di comporre insieme. Dunque lui mi telefonava quando aveva un album pronto praticamente, e ogni giorno veniva e scriveva una canzone. Sia il pubblico che gli addetti ai lavori hanno ormai capito il valore delle composizioni firmate Mogol Battisti, specialmente se cantate da quest'ultimo. Al primo successo, Balla Linda, seguono a breve Un'avventura, Non è Francesca, 10 ragazze, Acqua azzurra, acqua chiara e moltissime altre canzoni, in un turbinio pressoché inarrestabile di hit tanto popolari da scrivere una per una un pezzo di storia del costume del nostro paese. Si intensificano anche le comparsate di Battisti negli studi Rai. Lucio appare sempre vagamente impacciato, estraneo alle logiche dell'immagine televisiva e attento unicamente alla resa della sua musica. Lucio era molto dolce, era una persona molto dolce. Un ragazzo dolce e fragile. Ecco l'immagine che Mogol ancora conserva di Battisti. Una creatura delicata, fatta di musica ed emozioni. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Le dimensioni del successo del duo Mogol Battisti si possono misurare anche dal manifesto apprezzamento di personalità di spicco nel mondo della musica. La prima a voler cantare le loro canzoni è la Tigre di Cremona, regina incontrastata della canzone italiana, naturalmente Mina. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Le apparizioni televisive di Mina, le prese con i successi di Mogol Battisti, infiammano il pubblico, ma la cantante inizia a distillare con cura la sua presenza negli studi fino a scomparire del tutto nel corso degli anni 70. Lucio, naturalmente schivo e sinceramente schifato dai meccanismi che regolano TV e stampa, la prende ad esempio. Inizia a concedere sempre meno spazio alle logiche commerciali e promozionali. Più si sottrae, più i giornalisti diventano malevoli. È un maleducato, è un superbo, un fascista. Lucio cerca di nascondersi, di camuffarsi dietro alla sua musica, ma i travestimenti a volte non bastano. Effettivamente questo travestimento dei capelli mi dà, perché credo che tutti noi abbiamo un po', non dico dei complessi, non lo dico, lo dico? Dico, allora abbiamo dei complessi. E allora c'è chi si nasconde dietro una cosa, chi si nasconde dietro un'altra cosa, io mi nascondo dietro i capelli. Ultimamente, siccome questi complessi sono acuiti, anche i baffi così. I complessi di Lucio, l'astio nei confronti della stampa e l'idea che tutto ciò che è necessario al mondo possa essere compreso ed elaborato in una progressione di note musicali, fa sì che Battisti si allontani sempre più non solo dalle scene, ma anche da Mogol. Dopo un quindicennio di intensa collaborazione, ognuno prende la sua strada. Perché in realtà non c'era un motivo per il quale noi non abbiamo più lavorato insieme. La ragione è più fisiologica che patologica. Non sempre due percorsi possono procedere intrecciandosi fino alla fine. I testi degli ultimi 5 album di Lucio, così enigmatici, metafisici, sono firmati da Pasquale Panella. Ben diversi da quelli morbidi e immediati di Mogol, abituati a parlare per immagini, spaziando con destrezza dalla quiete della natura all'audacia di un triangolo amoroso. Temi sui quali Lucio, più di chiunque altro, sapeva ricamare sinfonie struggenti. Quando seppi che era morto, a parte il dispiacere, c'è stato anche questo fatto che la speranza non c'era più, o perlomeno in questa dimensione. Mogol non è l'unico a sperare che ne esistano altre, da qualche parte. L'ignoto sicuramente esiste, e sicuramente delle sue regole, dei suoi, delle quali noi non sappiamo nulla. Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?